proseguiamo. Non so, o possiamo fare l'intervento a De Coda che deve ancora farlo, o fate un giro di risposte, o gli diamo delle domande. Vabbè, un mini intervento a De Coda. Loro non hanno. Faccio anche da là. Tipo dal pubblico. Su una. No, cercando di produrre un po' ulteriormente, di produrre un po' più di dibattito sulla. Come devo metterla? Sulla. No, secondo me ha ragione Marazzi sulla questione che la condizione post-fordista è talmente rapida che è abbastanza difficile dare delle categorie rigide, e da lì secondo me la difficoltà anche in questa sede di riuscire a delineare bene quello che è è la prospettiva. Infatti non mi siedo. Allora, se da una parte mi sembra che Burgio abbia ragione sulla questione dei diritti, dall'altra parte però mi sembra inequivocabile il fatto che esista in processo questa volontà di sottrarre allo Stato sempre più ambito di manovra e quasi sostituirsi adesso attraverso una serie di esperienze sociali, non so se chiamarle ancora movimenti, che sono sempre meno rivendicative. Nel mio intervento avrei voluto anche parlare concretamente di queste cose che nell'ipotesi di Decoder si avvicinano a un modello di impresa avanzata, un'impresa sociale avanzata. Appunto, secondo noi questi movimenti sono poco rivendicativi e interpretano lo Stato come un ente verso il quale non è più possibile appunto fare inoltrare le proprie richieste, quasi fosse un ingombro burocratico, e sostituirsi adesso tramite una serie di operazioni che peraltro farebbero sì che questo tipo di esperienze avrebbero la possibilità di autolegittimarsi anche in ambiti dove questa legittimazione diversamente non sarebbe possibile. Poi magari ulteriormente nel dibattito cercherò di spiegare spiegherò che cosa sono questo tipo di esperienze. Comunque molto legate alla questione dell'innovazione tecnologica, elemento sul quale questo dell'innovazione, secondo me, si è insistito troppo poco, e rispetto ai vari dualismi che continuamente sono stati citati, è stato citato troppo poco. Insomma, quando tu dicevi probabilmente ti riferivi ai Freeman che si autogestiscono il loro spazio, però insomma, se noi applichiamo questo dualismo innovazione e conservazione, vediamo subito che l'esempio dei Freeman non sta più in piedi. Secondo me è proprio la caratteristica dell'innovazione che sta a caratterizzare un'esperienza che potremmo definire molto genericamente di sinistra, addirittura non la definirei più neanche di sinistra. Secondo me la dicotomia adesso sta proprio in questo: essere innovativi oppure essere conservatori o essere regressivi. Ritornando sempre per parlare di rigidità delle categorie, anche la domanda iniziale che faceva Aldo sull'inclusione ed esclusione, non mi sembra che si possa dare una risposta certa. Sempre ritornando a un vecchio dibattito, è sempre promosso da Aldo e quest'area qua, di qualche anno fa, mi sembra che non si sia spostato di molto la questione, ovvero che ci sia un tentativo da parte di movimenti sociali o di esperienze sociali di stare dentro e fuori, esclusi, inclusi, a seconda delle esigenze oppure dei bisogni che si vogliono rappresentare oppure raggiungere. Insomma, a me un po' il panorama complessivo sembra questo, che si dia per scontato che ci sia una certa serie di condizioni economiche e sociali, ad esempio il mercato, per cui la commercializzazione, non c'è più il lamento sulla commercializzazione di determinate pratiche, ma che una serie di esperienze abbiano incominciato a rimboccarsi le maniche e che abbiano e tentino a modo loro di rapportarsi con questo tipo di situazione. Poi magari aggiungo qualche cosa. Secondo me era anche il caso di parlare di forse più che di società, di cominciare a ridefinire quella che viene, come è stata chiamata, la sfera pubblica, e di come i movimenti o le esperienze sociali tentano di allargare, di rappresentarsi al suo interno. La chiudo qui e semmai facciamo un intervento successivo, perché abbiamo fatto un ragionamento anche sull'impresa.